Proseguirono, sempre in silenzio, e mentre attraversavano Newbridge, un piccolo villaggio pieno di attività, i cani abbaiarono al loro passaggio e frotte di ragazzini gridarono e fischiarono mentre facce curiose sbirciavano dalle finestre. Si lasciarono alle spalle altre 3 miglia e la bambina non aveva ancora aperto bocca. Era capace di tacere, a quel punto era evidente, con la stessa energia che metteva nel parlare. Scommetto che sei stanca e hai una gran fame, buttò lì Matthew, attribuendo quella lunga immersione nel silenzio all'unica causa che gli era venuta in mente. Comunque non manca molto ormai, un miglio solo. Anna uscì dalle sue fantasticherie con un profondo sospiro e gli rivolse uno sguardo sognante di una che aveva vagato a lungo in luoghi lontani, fra le stelle. Oh, signor Cuthbert, mormorò. Quel posto che abbiamo attraversato, quel posto tutto bianco, che cos'era? Beh, ecco, immagino che tu intenda il viale, disse Matthew dopo averci pensato su per un po'. Certo, è un posto proprio carino, eh? Carino. Carino non mi sembra la parola giusta, e nemmeno bello, se è per questo, non bastano, era meraviglioso. Sì. Meraviglioso. Per la prima volta nella mia vita ho visto una cosa che non poteva essere migliorata dall'immaginazione, perché mi dava soddisfazione così com'era. La bambina si portò una mano al petto e mi ha fatto provare un dolore strano, particolare, perché era un dolore piacevole. A lei è mai capitato di provare un dolore del genere, signor Cuthbert? Beh, in effetti io non ricordo di aver mai provato niente di simile. A me capita un sacco di volte, ogni volta che vedo qualcosa di veramente bello, ma non dovrebbero chiamare viale quel posto meraviglioso. È un nome senza senso, lo dovrebbero chiamare, vediamo, la Bianca Via della Delizia. Non è un nome più grazioso e originale? Sa, quando non mi piace il nome di un posto o di una persona, me ne invento sempre uno nuovo e comincio a pensare al posto o alla persona con il nome nuovo. All'orfanotrofio c'era una ragazza che si chiamava Hepzibah Jenkins, ma io me la sono sempre immaginata come Rosalia Devere. Gli altri potranno anche chiamarla Viale, ma io la chiamerò sempre la Bianca Via della Delizia. Davvero, manca soltanto 1 miglio per arrivare a casa? Oh, sono felice. E allo stesso tempo mi dispiace perché questa passeggiata è stata così piacevole. E mi spiace sempre quando una cosa che mi è piaciuta finisce. Può darsi che ciò che verrà sia ancora più gradevole, ma non si può mai sapere. E capita così spesso che in realtà ciò che segue non lo sia affatto. Almeno questa è stata la mia esperienza. Ma sono felice all'idea di arrivare a casa finalmente, perché sa, per quanto posso ricordare, io una casa vera non l'ho mai avuta. E al solo pensiero di entrare in una casa mi torna subito quel dolore piacevole. Oh, non è carino. Avevano appena superato la cresta di una collina. Sotto di loro si allargava uno stagno che sembrava quasi un fiume, tanto era lungo e sinuoso. Un ponticello lo tagliava a metà, e da quel punto fino all'estremità più distante, dove un arcipelago di isolotti di sabbia ambrata segnalava una zona più profonda, blu scuro, l'acqua mostrava una quantità di incredibili sfumature cangianti, che andavano dalle più spirituali tonalità dello zafferano e del rosa al verde etereo, con una serie di altre tinte indefinite per cui non era mai stato trovato un nome. Oltre il ponte, lo stagno si stendeva fra macchie di aceri e abeti frondosi, scuro e traslucido sotto le ombre che sfarfallavano. Qua e là, un pruno selvatico si sporgeva dalla sponda, come una ragazzina vestita di bianco che entrasse in punta di piedi nel proprio riflesso, sull'acqua. Dall'acquitrino, al margine dello stagno, giungeva chiaro il coro dolce e lamentoso delle rane. C'era una casetta grigia. I meli in fiore che crescevano sul pendio oltre lo stagno e, per quanto non fosse ancora abbastanza buio, una luce splendeva da una delle finestre. Quello è lo stagno di Barry, la informò Matthew. Oh, neanche questo nome mi piace. Lo chiamerò, vediamo, il lago delle acque scintillanti. Sì, è il nome giusto, lo so, per via del brivido. Quando trovo un nome che va alla perfezione, sento una specie di piccolo brivido. A lei certe cose non danno mai questa sensazione? Matthew ci pensò su. Beh, in effetti sì, mi vengono sempre i brividi quando vedo quegli orribili bruchi bianchi che gironzolano nelle aiuole dei cetrioli, proprio non li sopporto. Oh, non credo proprio che sia lo stesso brivido che intendo io. Secondo lei è possibile? Non mi sembra che i bruchi c'entrino molto con i laghetti dalle acque scintillanti, no? Ma come mai gli altri lo chiamano stagno di Barry? Scommetto che è perché il signor Barry abita in quella casa. La sua proprietà si chiama Orchard Slope, il pendio del frutteto. Se non fosse per quel tratto di boscaglia dietro la casa, da qui potresti già vedere Green Gables. Invece dobbiamo superare il ponte e proseguire lungo la strada, il che significa un altro mezzo miglio da percorrere. Il signor Barry ha qualche figlia piccola? Beh, non proprio piccolissima, però della mia età, diciamo. Ha una figlia sugli 11 anni, si chiama Diana. Oh! Esclamò Anna con un lungo sospiro estasiato. Che delizia di nome! Beh, ecco, non saprei, a me pare che ci sia un che di pagano. Preferisco nomi come Jane o Mary, nomi più normali, insomma. Ma quando nacque la piccola, la famiglia teneva a pensione un maestro di scuola e pensarono di lasciare a lui la scelta del nome, e quello la chiamò Diana, appunto. Quanto vorrei che ci fosse stato un maestro così in circolazione anche quando sono nata io. Oh, eccoci al ponte. Chiudo gli occhi stretti. Ho sempre una gran paura quando devo attraversare un ponte. Non posso evitare di immaginare che proprio quando saremo a metà del passaggio il ponte si pieghi in due, come un coltello a serramanico, e ci stritoli. Per questo chiudo gli occhi. Però poi li riapro sempre, quando ho la sensazione di essere al centro del ponte, perché, sa, se il ponte dovesse davvero piegarsi in due, io lo vorrei vedere. Che bel rombo farebbe! La parte del rombo è la mia preferita. Non le sembra splendido che ci siano tante cose che possono piacerci in questo mondo? Là, siamo passati. Adesso posso guardare indietro. Buonanotte, caro lago delle acque scintillanti. Auguro sempre la buonanotte alle cose che amo, come farei con le persone. Secondo me a loro piace. Quell'acqua, beh, è come se mi sorridesse. Quando ebbero superato la collina successiva e svoltato dietro l'ennesima curva, Matthew disse: siamo abbastanza vicini a casa ora. Quelli laggiù sono i tetti verdi di Green Gables. Oh, non me lo dica, lo interruppe lei col fiato sospeso, prendendo il braccio che l'uomo aveva cominciato a sollevare e chiudendo gli occhi per non vedere ciò che voleva indicarle. Mi lasci indovinare, sono sicura che ci azzeccherò. Riaprì gli occhi e si guardò intorno. Si trovavano in cima a un'altura. Il sole era calato da un po', ma il paesaggio era ancora visibile nella luce calda del tramonto. A ovest, il campanile di una chiesa si stagliava nero contro il cielo arancione come una calendula. Subito sotto si allargava una valletta, oltre la quale c'era un lungo pendio gentile, costellato di accoglienti fattorie. Gli occhi della bambina passarono rapidi da una all'altra, impazienti e concentrati, e alla fine si soffermarono su una casa un po' in disparte, sulla sinistra, distante dalla strada, che il bianco delle chiome fiorite dei meli tutt'intorno faceva spiccare contro il verde scuro del bosco dietro di essa. Proprio sopra quella casa, nel cielo terso a sud-ovest, una grande stella scintillante come cristallo risplendeva, simile a una lampada che guida e fa dolci promesse. «È quella, vero?» chiese indicandola. Matthew fece schioccare allegramente le redini sul dorso della cavalla. «Beh, ecco, ci hai preso. Ma scommetto che la signora Spencer te l'aveva descritta, quindi hai capito qual era.» «No, invece. Mi aveva detto poco e particolari che potevano funzionare per la maggior parte delle case qui intorno. Non avevo un'idea precisa di come fosse, ma appena l'ho vista ho capito che era quella la casa. Oh, mi sembra di vivere in un sogno. Sa, credo di avere il braccio coperto di lividi dal gomito in su per tutte le volte che mi sono data un pizzicotto oggi. Ogni 5 minuti mi assaliva una sensazione bruttissima e cominciavo ad avere paura che fosse tutto un sogno. Perciò mi pizzicavo il braccio per essere certa che fosse tutto vero. Ma a un certo punto, di colpo, mi è venuto in mente che se anche fosse stato solo un sogno, sarebbe stato molto meglio continuare a sognare il più a lungo possibile, quindi ho smesso di darmi i pizzicotti. Però è tutto vero e ormai siamo quasi a casa. Con un sospiro soddisfatto ricadde nel silenzio. Matthew si agitò sul sedile, a disagio. Era felice che toccasse a Marilla e non a lui dire alla trovatella che non avrebbe avuto la casa che desiderava tanto. Oltrepassarono anche Lindes Hollow, dove era già piuttosto buio, ma non tanto da impedire alla signora Linde di vederli, dalla sua postazione fissa alla finestra. E da lì cominciarono a salire su per la collina, per poi percorrere il lungo vialetto d'ingresso di Green Gables. Quando arrivarono alla casa, Matthew rifuggiva dall'imminente rivelazione con una forza che non riusciva a comprendere, e non era per sé o Marilla che si preoccupava né per i guai che quell'errore avrebbe probabilmente causato loro, era angosciato all'idea della terribile delusione della bambina. Pensando alla luce estasiata che le riempiva gli occhi e che di lì a poco si sarebbe spenta di colpo, aveva la tremenda sensazione di essere prossimo a vedere l'uccisione di qualcosa. Era più o meno la stessa sensazione che lo assaliva ogni volta che doveva uccidere un agnello, un vitello o una qualunque altra creatura innocente. Il cortile davanti a casa era immerso nel buio, quando il calesse svoltò dal vialetto, mentre le foglie dei pioppi frusciavano setose tutto intorno. «Ascolti gli alberi che parlano nel sonno», bisbigliò la bambina mentre l'uomo la sollevava per aiutarla a scendere. Chissà che sogni meravigliosi stanno facendo. Poi, tenendo saldamente la maniglia della borsa di stoffa che conteneva tutti i suoi beni terreni, lo seguì in casa. Capitolo 3. Una sorpresa per Marilla Cuthbert. Marilla si fece avanti nel solito modo spiccio appena Matthew aprì la porta, ma quando posò gli occhi sulla strana figuretta con il suo brutto vestito ruvido, le lunghe trecce di capelli rossi e gli occhi luminosi pieni di entusiasmo, si fermò di scatto, a bocca aperta. «Matthew Cuthbert, chi è questa?» sbottò. «Dov'è il ragazzo?» «Non c'era nessun ragazzo», rispose Matthew avvilito. «C'era soltanto lei». Accennò con il mento alla bambina e solo allora gli venne in mente che non le aveva neppure chiesto come si chiamasse. «Nessun ragazzo, ma doveva esserci!» insisté Marilla. «Avevamo scritto alla signora Spencer di portarcene uno!» «Beh, non l'ha fatto. Ha portato lei. Ho chiesto al capostazione, ma poi ho dovuto portarla a casa. Non potevo certo lasciarla lì, errore o no!» «Oh, beh, ma che pasticcio!» sbottò ancora Marilla. Nel corso di tutta quella conversazione, la bambina aveva taciuto. Gli occhi che passavano rapidi da uno all'altra mentre tutto l'entusiasmo le svaniva dal volto. Poi, all'improvviso, sembrò capire davvero il significato di ciò che era appena stato detto. Lasciò cadere la borsa, fece un passo avanti e giunse le mani al petto. «Non mi volete?» esclamò. «Voi non mi volete, perché non sono un maschio. Avrei dovuto aspettarmelo, non mi vuole mai nessuno. Dovevo capirlo che era tutto troppo bello per essere vero. Dovevo saperlo che nessuno poteva davvero volere me. Oh, cosa farò adesso? Scoppierò a piangere!» E lo fece. Seduta su una sedia vicino al tavolo, posò le braccia sul piano di legno e vi sprofondò la faccia. Poi scoppiò in un pianto a singhiozzi disperati. Marilla e Matthew si scambiarono uno sguardo al di sopra della cucina economica. Non sapevano che fare. Alla fine Marilla si fece avanti un po' incerta e disse: «Su, su, non c'è bisogno di piangere così.» «Sì, invece, c'è bisogno e come!» La bambina alzò la testa, rivelando le guance inondate di lacrime e le labbra tremanti. «Piangerebbe anche lei se fosse orfana e fosse arrivata in un posto convinta di aver trovato una casa, e poi scoprisse che lì non la vogliono perché è una femmina e non un maschio. Oh, questa è la cosa più tragica che mi sia mai capitata!» Qualcosa di simile a un sorriso riluttante, piuttosto arrugginito per mancanza di esercizio, addolcì l'espressione cupa di Marilla. «Beh, smetti di piangere. Non abbiamo certo intenzione di chiuderti la porta in faccia stasera. Dovrai stare qui finché non avremo capito cosa è successo. Come ti chiami?» La bambina esitò. Potreste chiamarmi Cordelia, per favore? Chiese speranzosa. Chiamarti Cordelia? Ma è il tuo nome? No, non è proprio il mio nome, ma mi piacerebbe tanto chiamarmi Cordelia. È un nome perfetto. Così elegante. Io proprio non capisco. Se non ti chiami Cordelia, come ti chiami? Anna Shirley. Confessò restia la proprietaria del nome. Però, oh, la prego, mi chiami Cordelia. Cosa le importa come mi chiamo, visto che starò qui tanto poco? E Anna non è per niente romantico. Romantico? Ma che sciocchezze! Esclamò Marilla, per nulla comprensiva. Anna è un bellissimo nome. Su, semplice e molto pratico. E tu non te ne devi vergognare, perché non ce n'è motivo. Oh, ma io non mi vergogno del mio nome, spiegò Anna. È solo che Cordelia mi piace di più. Ho sempre immaginato di chiamarmi così, almeno negli ultimi 5 anni. Ecco, quando ero piccola mi piaceva Geraldine, ma adesso preferisco Cordelia. Però, se vuole chiamarmi Anna, per favore, almeno che sia scritto con la A finale. Scusa, ma che differenza fa come si scrive, se si pronuncia sempre allo stesso modo? Le chiese Marilla con un altro sorriso rugginoso mentre prendeva la teiera. Oh, fa molta differenza, perché così sembra più carino. Quando pronuncia un nome, lei non lo vede nella mente, come se fosse stampato su un foglio? Io sì, e Ann ha un aspetto orribile, mentre Anna è molto più raffinato. Se solo mi potesse chiamare Anna, scritto con la A, io mi sforzerei di accettare l'idea di non chiamarmi Cordelia. Molto bene, allora. Anna, scritto con la A. Tu sai come mai c'è stato questo errore? Avevamo scritto alla signora Spencer di portarci un ragazzo. Forse all'orfanotrofio non c'erano maschi? Oh, sì, ce n'erano in abbondanza. Ma la signora Spencer ha detto chiaramente che volevate una ragazza sugli 11 anni. E la direttrice le ha risposto che secondo lei potevo essere io la persona adatta. Sapesse che contentezza per me. Ho passato la notte in bianco per la gioia. Oh, aggiunse subito dopo in tono di rimprovero, girandosi verso Matthew. Signor Cuthbert, perché non mi ha detto subito alla stazione che non mi voleva? Poteva lasciarmi lì, se almeno non avessi visto la bianca via della Delizia e il lago delle acque scintillanti ora non sarebbe così dura. Ma di che cosa sta parlando questa bambina? Chiese Marilla squadrando il fratello. Oh, no, niente, sono solo chiacchiere che abbiamo fatto lungo la strada, si affrettò a spiegare Matthew. Senti, Marilla, io porto la cavalla nella stalla. Metti in tavola per quando torno. In treno con la signora Spencer. C'era qualcun altro oltre a te? Continuò Marilla quando Matthew fu uscito. Sì, c'era Lily Jones che andrà a stare dalla signora Spencer. Lily ha soltanto 5 anni ed è bellissima. Ha i capelli castani, lei. Se io fossi molto bella e avessi anch'io i capelli castani, mi terrebbe, signora? No. Vogliamo un maschio per aiutare Matthew nei lavori della fattoria. Una femmina non ci sarebbe utile. Togliti il cappello, su, lo metto insieme alla tua borsa sul tavolo dell'ingresso. Anna si tolse il copricapo con aria mesta. Matthew tornò in casa quasi subito e si sedettero tutti per cenare, ma Anna aveva perso del tutto l'appetito. Mordicchiò appena il pane imburrato e prese mezzo cucchiaio di composta di mele selvatiche dalla ciotolina di vetro smerlato accanto al suo piatto, ma non mandò giù quasi nulla. Non stai mangiando niente, osservò Marilla secca, guardandola come se si trattasse di una grave mancanza. Anna sospirò. Non ce la faccio, sono in preda alla disperazione. Lei riesce a mangiare quando è disperata? Ah, non lo sono mai stata, quindi non saprei dire, rispose Marilla. No? Davvero? E non ha mai provato a immaginare di essere in preda alla disperazione? No? Allora non credo che possa capire come ci si sente. Si sta proprio male. Provi a ingoiare un boccone e ti si forma un groppo in gola che ti impedisce di deglutire, nemmeno se hai in bocca una caramella mo' al cioccolato. Ne ho mangiata una un paio d'anni fa ed era una vera delizia. Da quel giorno ho sognato spesso di averne una montagna tutta per me. Ma mi sveglio ogni volta proprio nel momento in cui faccio per addentare la caramella. Spero che non vi offendiate se non mangio. È tutto molto buono, ma non ci riesco proprio. Scommetto che è stanca, osservò Matthew, che non aveva detto una parola da quando era rientrato dalla stalla. Meglio metterla a letto, Marilla. La donna si stava giusto domandando dove far dormire Anna. Per il ragazzino desiderato e atteso aveva preparato una brandina nella dispensa, accanto alla cucina, ma per quanto fosse un posticino pulito e in ordine, non le pareva adatto per farci dormire una bambina. D'altra parte, la stanza degli ospiti era fuori questione per una trovatella, quindi restava soltanto la camera in mansarda verso est. Marilla accese una candela e disse ad Anna di seguirla. La bambina, abbattuta, ubbidì senza discutere e prese la borsa e il cappello dal tavolo dell'ingresso mentre passava. L'ingresso era spaventosamente pulito e la cameretta in cui la bambina si trovò poco dopo le parve ancora più limpida. Marilla appoggiò la candela su un tavolino triangolare a tre gambe e tirò indietro il copriletto. «Hai una camicia da notte, vero?» si informò. «Sì, ne ho due. Me le ha fatte la direttrice dell'orfanotrofio. Sono terribilmente ruvide. Negli orfanotrofi non c'è mai abbastanza di niente, tutto è di scarsa qualità, almeno negli orfanotrofi poveri come il mio. Detesto le camicie da notte ruvide, però è vero che per sognare non sono indispensabili tessuti morbidi e pizzi arricciati intorno allo scollo. È già qualcosa. Beh, cambiati alla svelta e va a letto. Torno fra 5 minuti a prendere la candela. Non mi fido a lasciartela spegnere, potresti mandare a fuoco la casa.» Quando Marilla fu uscita, Anna si guardò intorno con aria malinconica. Le pareti imbiancate erano talmente spoglie e disadorne da farle pensare che soffrissero per quella nudità. Anche il pavimento era spoglio, tranne che per una stuoia rotonda intrecciata di un tipo che Anna non aveva mai visto. Da una parte c'era il letto, alto e antiquato, con 4 colonnine scure e ritorte agli angoli. Dalla parte opposta c'era il suddetto tavolino triangolare, ornato da un grosso puntaspilli di velluto rosso, talmente duro e imbottito che con tutta probabilità lo spillo che vi si fosse avventurato sarebbe rimasto senza punta. Alla parete, subito sopra, era appeso un piccolo specchio. A metà, tra il tavolino e il letto, c'era una finestra con una balza arricciata di mussolina bianca, ghiaccio, a mo' di tendina. E di fronte c'era il portacatino. Tutto era talmente gelido che non c'erano parole per descriverlo, ma quella freddezza fece venire i brividi ad Anna. Con un singhiozzo la bambina si spogliò in fretta, si infilò la camicia da notte di tela ruvida e saltò nel letto, dove affondò la faccia nel cuscino e si tirò le coperte fin sopra la testa. Quando Marilla salì a prendere la candela, solo gli indumenti sparpagliati in disordine sul pavimento e il letto sottosopra dimostravano la presenza di un'altra persona, oltre a lei. Raccolse con gesti cauti i vestiti di Anna, li appoggiò con cura sulla sedia foderata di tessuto giallo, prese la candela e si accostò al letto. «Buonanotte», disse un po' goffamente ma con gentilezza. Gli occhioni di Anna e il faccino pallido spuntarono fulminei dall'orlo del copriletto. «Come può definirla una buona notte quando sa perfettamente che sarà la peggior notte della mia vita?» le chiese con aria di rimprovero. Dopodiché si rituffò nell'invisibilità. Marilla scese lentamente in cucina e cominciò a lavare i piatti della cena. Matthew stava fumando, segno che aveva molti pensieri per la testa. Lo faceva di rado perché Marilla la considerava una pessima abitudine ed era al contrario, ma in certi momenti o stagioni ne aveva voglia e lei faceva finta di niente perché si rendeva conto che un uomo doveva pure avere uno sfogo per le sue emozioni. «Beh, certo che questo è proprio un gran pasticcio», commentò furiosa la donna. «È così che vanno le cose quando si incarica qualcun altro anziché provvedere per conto proprio. I contadini di Robert Spencer hanno evidentemente capito male il messaggio. Domani uno di noi dovrà andare a parlare con la signora Spencer, poco ma sicuro. Quella ragazzina deve essere rispedita all'orfanotrofio.» «Sì, immagino di sì», disse Matthew con riluttanza. «Tu immagini? Perché non ne sei sicuro?» «Beh, ecco, è così carina, Marilla. È un vero peccato doverla mandare via quando lei era così felice di restare.» «Matthew Cuthbert, non starai dicendo che secondo te dovremmo tenerla, vero?» Lo sgomento di Marilla non avrebbe potuto essere più grande se Matthew avesse sostenuto che stare a testa in giù era comodissimo. «Beh, no, Immagino di no, non proprio. Farfugliò lui, che si sentiva messo alle strette da quella domanda imperiosa. Immagino che nessuno possa aspettarsi che la teniamo. Direi proprio di no. A cosa ci servirebbe? Forse siamo noi che potremmo servire a lei, ribatté Matthew di scatto in modo inaspettato. Matthew Cuthbert, secondo me quella bambina ti ha stregato. Si vede benissimo che la vuoi tenere. Beh, ecco, devo ammettere che mi sembra una ragazzina molto interessante, insisté Matthew. Avresti dovuto sentirla parlare mentre tornavamo dalla stazione. Oh, che ha la lingua lunga, me ne sono accorta anch'io, sta tranquillo. E non lo considero un pregio. I bambini che parlano troppo non mi piacciono. Non voglio un'orfanella, e se anche la volessi non la sceglierei come questa. C'è qualcosa che non capisco in quella bambina. No, no, no, no, no. Deve essere rispedita immediatamente nel posto da cui è venuta. Però io potrei assumere un ragazzo francese per aiutarmi nei lavori della fattoria, osservò Matthew, e lei farebbe compagnia a te. Non soffro di solitudine io, tagliò corto Marilla, e non intendo tenerla in casa mia. Certo, faremo come dici tu, Marilla, concluse Matthew alzandosi e riponendo la pipa. Vado a letto. Matthew se ne andò a dormire e lo stesso fece Marilla, dopo aver messo via le stoviglie lavate, sempre risoluta e accigliata. Intanto, in mansarda, nella parte est della casa, una bambina sola, bisognosa d'affetto e senza amici, piangeva disperata e pianse finché esausta si addormentò. Capitolo 4. Mattina a Green Gables. Era a pieno giorno quando Anna si svegliò e si mise seduta nel letto. Guardò con aria confusa la finestra dalla quale filtravano raggi di sole che profumavano di ciliegio, mentre fuori un pizzo bianco e vaporoso fluttuava fra sprazzi di cielo azzurro. Per un attimo non riuscì a ricordare dove fosse. Prima fu presa da un fremito deliziato, come per qualcosa di piacevole, poi fu travolta da un ricordo orribile. Quel posto era Green Gables. Ma lì non la volevano perché non era un maschio. Però era una bella mattina e sì, fuori dalla finestra c'era un ciliegio in piena fioritura. Anna scese dal letto con un balzo e attraversò la camera. Spinse l'anta a ghigliottina, che salì a fatica come se non fosse stata aperta da lungo tempo, ed era proprio così in effetti. Non dovette nemmeno bloccarla perché restasse sollevata. La ragazzina si mise in ginocchio e guardò fuori, gli occhi pieni di entusiasmo per quella splendida mattina di giugno. Oh, non era bello, non era un posto stupendo. Se non ci fosse stata, avrebbe immaginato di esserci. Era un luogo pieno di spunti per la sua fantasia, quello. Di fronte alla finestra c'era un enorme ciliegio, così vicino che i rami toccavano il muro della casa e così fitto di fiori che praticamente non si vedevano le foglie. La casa era circondata da un grande frutteto. Da un lato crescevano meli, dall'altro ciliegi, tutti fioriti, e l'erba era punteggiata dai petali gialli del tarassaco. Nella parte tenuta a giardino c'erano cespugli di lilà coperti di fiori viola chiaro, e la dolce fragranza inebriante, portata dalla brezza del mattino, raggiungeva la finestra della mansarda. Oltre il giardino, un verdissimo campo di trifoglio scendeva fino alla valletta in cui scorreva il ruscello e dove crescevano betulle dalla corteccia perlacea, che spuntavano alte e sottili da un delizioso sottobosco di felci, muschi e arbusti di ogni tipo. Dalla parte opposta sorgeva una collina verde, coperta di pini e abeti. Fra gli alberi si apriva una radura, da cui spuntava il tetto grigio della casetta che Anna aveva visto sull'altro lato del lago delle acque scintillanti. Verso sinistra c'erano il granaio, il fienile e la stalla, e dietro i capannoni, oltre i vasti campi verdi in leggera pendenza, si scorgeva uno sprazzo di mare. Gli occhi di Anna, che amavano le cose belle, contemplarono quel meraviglioso paesaggio, assorbendo ogni dettaglio con struggente desiderio. Aveva guardato tanti brutti posti nella sua vita, povera bambina, Questo era il più bello di quanto avesse mai sognato. E rimase in ginocchio, appoggiata al davanzale, senza pensare a nulla se non alla bellezza che la circondava, finché una mano le si posò sulla spalla, facendola trasalire. Marilla era entrata in camera, senza che la piccola sognatrice se ne accorgesse. «È ora di vestirsi», le disse in tono brusco. Marilla non sapeva davvero come parlare alla bambina e quella spiacevole incapacità la rendeva fredda e distaccata senza che lo volesse. Anna si alzò e fece un profondo sospiro. «Ah, non è una meraviglia», disse con un gesto della mano che comprendeva tutto il bellissimo mondo fuori dalla finestra. «È un grande albero», ribatté Marilla, «e la fioritura è stupenda, ma i frutti non sono mai granché, sempre piccoli e bacati». Oh no, non parlavo solo dell'albero. Certo il ciliegio è delizioso, sfolgorante. Fiorisce in un modo, beh, con molta convinzione, ecco, però io mi riferivo a tutto quello che c'è qui. Il giardino, il frutteto, il ruscello, i boschi, insomma, questo caro, caro mondo al completo. Lei non adora il mondo in una mattina come questa? Sento perfino il ruscello che ride da laggiù. Ha mai notato quanto siano allegri i ruscelli? Io li ho sentiti ridere anche d'inverno sotto il ghiaccio. Sono così felice che ce ne sia uno vicino a Green Gables. Penserà che non faccia nessuna differenza per me, visto che non avete intenzione di tenermi qui. Invece ne fa. Avrò sempre il piacere di ricordarmi che a Green Gables c'è un ruscello, anche se non lo rivedrò mai più. Se il ruscello non ci fosse stato, io sarei stata tormentata dalla sgradevole sensazione che avrebbe dovuto esserci. Stamattina non sono in preda alla disperazione. Non sono mai disperata a quest'ora. Non è meraviglioso che esista la mattina? Comunque sono molto triste. Stavo giusto immaginando di essere io quella che volevate alla fine di poter restare qui per sempre. Mi è stato di grande conforto finché è durato. Ma il brutto di immaginarsi le cose è che prima o poi tocca smettere e fa male. Sarà meglio che tu ti vesta e scende, che lasci perdere tutte queste fantasie, disse Marilla appena riuscì a infilare una parola in quel diluvio. La colazione è pronta, lavati la faccia e pettinati, lascia la finestra aperta e tira indietro le coperte ai piedi del letto e sbrigati. Evidentemente Anna sapeva sbrigarsi quando era necessario perché arrivò in cucina nel giro di 10 minuti, vestita per bene, i capelli pettinati, le trecce rifatte, la faccia lavata e la piacevole consapevolezza di aver eseguito tutti gli ordini di Marilla. Tuttavia, in realtà si era dimenticata di tirare indietro lenzuola e coperte. Stamattina ho fame, annunciò sistemandosi sulla sedia che Marilla aveva preparato per lei. Il mondo non mi sembra più una landa desolata come ieri sera. Sono così felice che ci sia il sole, anche se a dire il vero mi piacciono tanto anche le mattine di pioggia. Ogni mattina è interessante, no? Non sai mai cosa ti succederà durante la giornata e ci puoi fantasticare quanto vuoi. Comunque sono felice che non sia una mattina piovosa questa perché nelle giornate di sole è più facile essere di buon umore e sopportare dispiaceri e io ho un dispiacere molto grosso da affrontare oggi. Leggere storie tragiche e immaginarti di viverle come una vera eroina è bello, ma non è così piacevole quando ci si trova a viverle di persona, no? Per l'amor del cielo, tieni a freno quella lingua, replicò Marilla. Parli davvero troppo per essere una bambina così piccola. Da lì in poi, Anna tenne a freno la lingua con tale zelo che il suo prolungato silenzio cominciò a far sentire Marilla nervosa, come se si trovasse di fronte a un fenomeno non del tutto naturale. Anche Matthew taceva, ma questo almeno era, sì, un fenomeno naturale. Insomma, il pasto fu molto silenzioso. Anna si fece sempre più assorta, mangiava meccanicamente, con i grandi occhi fissi e assenti, che guardavano ma non vedevano il cielo fuori dalla finestra, il che rese Marilla più nervosa che mai. Aveva la spiacevole sensazione che per quanto il corpo di quella strana bambina fosse seduto a tavola, il suo spirito fosse lontano, in qualche remoto luogo fra le nuvole, in volo sulle ali dell'immaginazione. Chi poteva volere per casa una bambina del genere? Eppure Matthew desiderava tenerla. C'era da non crederci. Marilla si rendeva conto che quel mattino il fratello ne era convinto ancora di più che la sera prima e che non intendeva cambiare idea. Era tipico di Matthew mettersi in testa un'assurdità e perseguirla con sbalorditiva, silenziosa cocciutaggine, 10 volte più potente ed efficace nel suo silenzio delle parole che avrebbe potuto pronunciare. Quando ebbe finito di mangiare, Anna si riscosse dal suo sogno a occhi aperti e si offrì di lavare i piatti. «Li sai lavare come si deve?» chiese Marilla diffidente. «Abbastanza bene, direi, anche se sono più brava quando mi occupo di bambini piccoli. Mi sono fatta una bella esperienza. È un vero peccato che qui non ce ne siano, avrei potuto badare a loro. Ci mancherebbe solo quello. Tu basti e avanzi, e sei già un bel problema. Non so proprio cosa fare con te. Matthew si sta comportando in modo ridicolo in tutta questa storia». «A me pare così gentile», osservò Anna in tono di rimprovero. «Ed è anche simpatico. Non mi ha detto nemmeno una volta che parlavo troppo, anzi, sembrava che gli piacesse. Ho avuto la sensazione che i nostri fossero spiriti affini, dal primo momento in cui l'ho visto». «Sì, in effetti siete entrambi piuttosto bizzarri, se è questo che intendi con spiriti affini», la rimbeccò Marilla un po' acida. «Comunque sì, puoi lavare i piatti. Usa tanta acqua calda e asciugali molto bene. Ho già abbastanza da fare stamattina, visto che nel pomeriggio mi toccherà andare fino a White Sands dalla signora Spencer. Verrai anche tu e vedremo cosa fare. Quando hai finito con i piatti, vai su a rifarti il letto». Anna lavò i piatti abbastanza bene, come notò Marilla, che non l'aveva persa di vista un attimo. Più tardi rifece il suo letto un po' meno bene, perché non aveva ancora imparato a combattere con le grosse trapunte di piume, ma in qualche modo riuscì a ottenere un risultato decente, e per liberarsi di lei Marilla le disse che poteva uscire in giardino a giocare fino all'ora di pranzo. Anna corse verso la porta raggiante, con gli occhi pieni di gioia, ma sulla soglia si bloccò di colpo. Girò sui tacchi, tornò indietro e si sedette al tavolo della cucina. Tutta la luminosità di poco prima era sparita, come se qualcuno l'avesse spenta con un battito di mani. «Si può sapere cosa c'è adesso?» chiese Marilla. «Non ce la faccio a uscire», rispose Anna con il tono di una martire che rinuncia a ogni gioia terrena. «Se non posso stare qui, non ha proprio senso che mi affezioni a Green Gables. E se vado là fuori e mi abituo a tutti quegli alberi, ai fiori, al frutteto e al ruscello, poi non potrò fare a meno di amarli. È già abbastanza difficile così. Non voglio peggiorare la situazione. Vorrei tanto uscire in giardino. Mi sembra che tutto mi stia chiamando. Anna, Anna, esci, vieni da noi. Anna, Anna, vogliamo giocare con te. Però è meglio di no. È inutile affezionarsi se si deve essere strappati via da ciò che si ama, no? Ed è così difficile non affezionarsi a certe cose. Per questo ero così felice quando ero convinta di venire a vivere qui. Pensavo a quante cose avrei potuto amare senza che niente potesse impedirmelo. Ma ormai quel breve sogno si è volatilizzato. Sono rassegnata al mio destino. Perciò penso che non uscirò in giardino perché ho paura di tornare a sperare. Potrei sapere come si chiama quel geranio sul davanzale, per favore? Quello è un geranio odoroso e profuma di mela. No, non intendevo quel tipo di nome. Io parlavo del nome che ha dato lei alla pianta. Non gliel'ha dato un nome suo? Posso darglielo io, allora? Posso chiamarlo, vediamo, Bonnie? Bonnie potrebbe andare. Posso chiamarlo Bonnie finché sono qui? Oh, la prego. Oh, santo cielo, a me non importa, ma mi spieghi che senso ha dare un nome a un geranio? Beh, mi piace che ogni cosa abbia un nome, anche se è solo un semplice geranio. Lo rende più simile a una persona, ecco. Come si fa a sapere se la pianta non ci resta male a essere chiamata solo geranio? A lei non piacerebbe essere chiamata sempre solo donna, scommetto. Sì, lo chiamerò Bonnie. Stamattina ho dato un nome anche alla pianta di ciliegio fuori dalla finestra della mia camera. L'ho chiamata Regina della Neve, visto che è tutta bianca. Certo, so che non sarà sempre in fiore, ma questo lo si può immaginare, no? In vita mia non ho mai visto né sentito nessuno come questa bambina, brontolò Marilla, mentre batteva in ritirata verso la cantina per andare a prendere le patate. In effetti è davvero particolare, come dice Matthew. Mi sto già domandando cosa diavolo si inventerà tra 5 minuti. Sta incantando anche me, come ha fatto con mio fratello. Lo sguardo che mi ha lanciato Matthew prima di uscire non faceva che ripetere tutto ciò che ha detto o suggerito ieri sera. Quanto vorrei che fosse come tutti gli uomini e dicesse chiaramente ciò che vuole. Almeno potrei cantargliene quattro e farlo ragionare. Ma cosa puoi fare con uno che si limita a guardarti? Anna era ricaduta intanto nei suoi sogni a occhi aperti e se ne stava con il mento appoggiato alle mani e gli occhi persi nel cielo quando Marilla tornò dalla spedizione in cantina. E la donna la lasciò stare finché il pranzo anticipato non fu in tavola. Oggi pomeriggio posso prendere il calesse e la cavalla, vero Matthew? Domandò Marilla. Matthew annuì e lanciò ad Anna uno sguardo malinconico. Marilla lo intercettò e disse brusca: Devo andare a White Sands a sistemare questa faccenda. Porto Anna con me. Probabilmente la signora Spencer farà in modo di rimandarla subito in Nuova Scozia. Lascio già apparecchiato per la cena, così trovi pronto e faccio in modo di tornare in tempo per mungere le mucche. Matthew continuò a tacere e Marilla ebbe la sensazione di aver sprecato parole e fiato. Non c'è niente di più seccante di un uomo che non risponde, a parte una donna che si comporta così. Quando fu il momento, Matthew attaccò la cavalla al calesse. E Marilla e Anna si avviarono. L'uomo aprì il cancello del cortile e mentre le due lo superavano al passo, disse, in apparenza a nessuno in particolare, Stamattina è passato di qui il piccolo Jerry Watt della valle e gli ho detto che probabilmente lo assumerò per l'estate. Marilla non ribatté, ma rifilò alla sfortunata cavalla Saura una frustata così energica che il grasso animale, non abituato a un simile trattamento, schizzò lungo il sentiero a una velocità preoccupante. Sul calesse, che sobbalzava, Marilla si voltò indietro e vide suo fratello, appoggiato allo steccato, che le seguiva con uno sguardo afflitto. Che uomo esasperante!